sogni, sogni, mano nella mano, partiti, partiti, partiti, con l'ultimo treno, una valigia piena di ricordi, un piano accordato con il passare degli anni, vergine unione, una marea di figli, spesso incollati come la terra ai gigli, ci hanno lasciato il loro divenire, un giardino di rose, un albero di sole, una lampada a gas, un fiammifero acceso, una miriade di mirto, un profumo diffuso, una lanterna nel cuore, un secolo di amore. Tremava il loro polso, ma mai il loro cuore. A una certa età le parole non servono, ci si specchia nei giovani, gli amanti non parlano, tra spine e cespugli si trovano funghi, se sei sotto costa stai attento agli scogli, divorziati dall'odio, dall'amore congiunti, senza un filo di vento, malgrado tutto, sempre avanti, per coloro che sanno, forse è meglio non dire che la strada migliore è la più dura da seguire, abbracciati alla luce, con i piedi per terra, io li vedo bambini, abbracciati a una stella, la saggezza dei grandi non si conta con gli anni, ma dai fatti vissuti che lasciano segni. Quando la vita li lascia, in un colpo ci appare tutta la loro storia, tutto il loro amore si rivive in un attimo, il loro film muto, che la nostra è la loro, il nostro futuro che ci stringe e ci incolla come pelle al tamburo, perché chi ama è vincente e lascia un segno sul muro. 100 anni che sono, quando siamo l'eterno, forse un briciolo d'aria, forse un pezzo di piombo, quel che è certo è che siamo come rami nel vento, oggi giovani spighe, domani grano e frumento, quel che è certo è che siamo ostaggi del tempo, oggi libere foglie, domani schegge nel vento, abbracciati alla luce, con i piedi per terra, io li vedo bambini, abbracciati a una stella, la saggezza dei grandi non si conta con gli anni, ma dai fatti vissuti che lasciano i segni.